Buongiorno, buongiorno. Siete pronti a spendere i prossimi 40 minuti, mi prendo qualcosa in più, per incontrare la parola di Dio? Questa è la cosa più importante, questa è la cosa determinante, questo è il motivo per cui, uno dei motivi per cui siamo qui. Ecco, si è addrizzato pure. Il titolo di questo messaggio è Pensati libero. Pensati libero e poi credici davvero. E questo noi faremo un cammino parallelo tra qualcosa che è successo al popolo di Israele durante l'Esodo e quello che succede a noi nella nostra vita quotidiana. Siamo nel momento in cui il popolo di Israele finalmente si approccia a entrare nella terra promessa. Sono passati circa 2 anni dal momento che sono stati liberati dalla schiavitù d'Egitto, da quando hanno passato il Mar Rosso, e in questi 2 anni hanno ricevuto i 10 comandamenti, tutte quelle leggi e quelle regole che avrebbero regolato la vita sociale, la vita familiare. Avevano costruito il tabernacolo, avevano imparato a come fare i sacrifici, come fare il culto a Dio. E Dio li aveva persino istruiti su come si dovevano mettere in marcia. Dice: voi quando dovete camminare dovete fare in questo modo, quelli prima, quelli dopo, e gli dava anche le spiegazioni. È interessante anche questo fatto qua. Ma in questo momento sono arrivati al confine della terra promessa e Dio dice a Mosè: ok, adesso abbiamo vissuto insieme con il popolo una serie di miracoli, dalla divisione del Mar Rosso, alla manna, all'acqua che scaturiva dalla roccia. Adesso dobbiamo conquistare la terra promessa. Prendi degli uomini e mandali ad esplorare questa terra, in modo che ti rendi conto a che cosa stiamo andando incontro. Ed questo è scritto in Numeri al capitolo 13 dal versetto 1, è scritto: l'Eterno parlò a Mosè dicendo: manda degli uomini ad esplorare il paese di Canaan che io ti do. Ne manderete uno per ogni tribù e saranno dei principi. Quindi ha scelto le persone migliori per andare lì. E così sono arrivati lì, hanno fatto il giro del paese, hanno raccolto dei frutti e avevano preso, immaginate, un grappolo d'uva che portavano in 2 persone, talmente era grande, talmente era pesante. Al versetto 25 leggiamo del resoconto che fanno. Tornarono dall'esplorazione del paese al termine dei 40 giorni e andarono a trovare Mosè, dicendo: noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato. Veramente vi scorre il latte e il miele, e questi sono i suoi frutti, e gli hanno mostrato il grappolo d'uva. Ma, e questo ma io l'ho fatto grande negli appunti miei, ogni volta che nella nostra vita c'è un ma, dobbiamo stare attenti. È come se ci fosse un lampeggiatore. Ogni volta che noi ci troviamo a pensare a qualcosa che riguarda la nostra vita e pensiamo a un ma, dobbiamo aprire gli occhi. Infatti, proseguono così nel loro resoconto: ma il popolo che abita nel paese è forte. Le città sono fortificate grandissime. Abbiamo visto dei discendenti di Anak che erano dei giganti. Caleb, che era uno degli esploratori, cercò di calmare il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese perché Dio ce l'ha dato, noi lo possiamo fare. Ma tutta l'assemblea alzò la voce e diede in grida, e per quella notte il popolo pianse. Nel capitolo 14, al versetto 1, questo lo leggiamo assieme, è scritto così: allora tutta l'assemblea alzò la voce e diede in alte grida, e quella notte il popolo pianse, e tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne, e tutta l'assemblea disse loro: fossimo morti nel paese d'Egitto o fossimo morti in questo deserto, perché l'Eterno ci conduce in questo paese per farci cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri piccoli saranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? e dissero l'un l'altro: scegliamo un capo e torniamo in Egitto. Scegliamoci un capo e torniamo in Egitto. Come se tutto quello che era successo fino a quel momento non valesse più niente. In questa affermazione, scegliamoci un capo e torniamo in Egitto, c'è la chiave di lettura di tutta questa storia. Dio aveva combattuto per loro, aveva fatto dei miracoli straordinari. Abbiamo detto, aveva aperto il mare, aveva fatto piovere il pane dal cielo, aveva fatto scaturire l'acqua dalla roccia, aveva fatto delle cose incredibili, e loro erano pronti a rinunciare a tutto. Erano arrivati al confine ed erano pronti a rinunciare a tutto, a tornare indietro, a tornare in Egitto, a essere schiavi. Vedete, loro erano meravigliati dei popoli che avevano trovato, ma se andate a leggere in Esodo al capitolo 33, Dio gli aveva detto: tu andrai là e troverai questo, gli ittiti, troverai tutto. E loro forse non avevano ascoltato ed erano ancora sorpresi. La ragione del perché non riuscivano ad afferrare le promesse di Dio e quello che Dio gli stava offrendo è molto semplice. Erano usciti dall'Egitto, ma il loro cuore e la loro mente era rimasta là. Erano ancora schiavi dentro. Erano ancora schiavi dentro. E da questa storia noi impariamo una lezione molto importante. E io vi prego di tenerne conto. Non sono le promesse di Dio o i miracoli che ci faranno conquistare qualcosa. Non sono le promesse di Dio e i miracoli che ci fanno conquistare qualcosa. Perché il popolo di Israele aveva avuto sia le promesse che i miracoli e stavano tornando indietro. Beh, a Dio gli è venuto un po' la susta riguardo a questo fatto qua. E l'Eterno disse a Mosè: fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a quando rifiuteranno di credere dopo tutti i miracoli che ho fatto loro? E ha trovato una soluzione che è molto severa. Dio sa essere severo. È un Dio di pace, è un Dio d'amore, ma è un Dio giusto. Allora l'Eterno disse, perché aveva detto prima a Mosè: fammeli distruggere tutti, che mo iniziamo da capo. E Mosè ha detto: no, non li distruggere, se no diranno che non sei stato capace di fargli conquistare la terra promessa. Mosè era un politico di alto rango. E l'Eterno disse: io perdono come tu hai chiesto, ma come è vero che io vivo, tutta la terra sarà piena della mia gloria. E tutti questi uomini che hanno visto la mia gloria e i prodigi che ho fatto in Egitto e nel deserto, e mi hanno già tentato 10 volte e non hanno ubbidito la mia voce, ascoltate che dice: certo non vedranno il paese che ho giurato di dare ai loro padri. Nessuno di quelli che mi ha disprezzato lo vedrà. È qualcosa di severo, è una condanna al fallimento e al rimpianto. Il popolo di Israele era stato scelto ed era stato mosso fino a quel momento per conquistare la terra promessa. E con queste parole Dio decreta il fallimento di quella gente, di quel popolo. Erano, l'aspetto che più mi colpisce è che erano destinati a rimanere a vivere nel rimpianto di quello che sarebbe potuto essere e non è stato. E non c'è niente di più amaro del rimpianto. Se tu ti guardi indietro e guardi alle occasioni che hai perso e guardi a quello che poteva essere e che non è stato e non puoi farci più niente, ti prende un'angoscia allo stomaco. E questa era la condanna che Dio aveva decretato per quelle persone. Ora noi possiamo chiederci: ma che c'entriamo noi con questa storia? E in realtà c'entriamo molto. Ci abbiamo molto a che fare con questa storia. In questa storia e nel percorso del popolo di Israele ci sono dei principi e delle verità che noi dobbiamo scoprire e che dobbiamo capire e che dobbiamo fare nostre affinché possiamo realizzare il piano che Dio ha per la nostra vita. il piano che Dio ha per la nostra famiglia, il piano che Dio ha per la nostra Chiesa. Efesini, capitolo 2, versetto 8. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Come il popolo di Israele era stato scelto per conquistare, per avere un futuro, per essere appartato per Dio, anche noi siamo stati scelti. E siamo stati scelti per grazia. Né il popolo di Israele lo meritava e nemmeno noi lo meritavamo. Anche per noi c'è stata una liberazione dalla schiavitù del peccato. Dio nel suo amore ha visto la condanna del peccato, ha visto la condanna della morte, ha visto che le scelte dell'uomo lo avevano separato da lui e ha deciso di fare qualcosa. Ha deciso di mandare Gesù, il suo figlio, a morire sulla croce per pagare il prezzo di riscatto per il perdono dei peccati e fare in modo che così noi potessimo fare pace con Dio. Abbiamo molto a che fare con la grazia e con l'amore di Dio che si è rivelato con il popolo di Israele e ancora di più con noi. Dio non solo ci ha perdonato, ma ci ha dato il dono della vita eterna, per grazia. Non lo possiamo meritare, ma lui lo ha fatto. E l'Apostolo Paolo continua parlando agli Efesini e gli dice al versetto 19 qualcosa di ancora più speciale. Così dunque, cioè perché Cristo è andato sulla croce, è morto e ha pagato il prezzo del peccato e vi ha fatto fare pace con Dio, per questo motivo voi non siete più né forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Anche noi, come il popolo di Israele, che non era niente e nessuno, noi non eravamo niente e nessuno e siamo entrati a far parte della famiglia di Dio. Siamo entrati a far parte del suo popolo. Anche la nostra identità è cambiata. Anche noi abbiamo da conquistare. Non abbiamo da conquistare delle terre o da conquistare qualcosa di così pratico, abbiamo da conquistare delle vite. Quando Gesù ha insegnato a pregare, non ha insegnato e venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Questa è la nostra conquista. Che venga il regno di Dio nella nostra vita intorno a noi e sia fatta la volontà di Dio nella nostra vita e intorno a noi. A questo punto dobbiamo afferrare e rimarcare di nuovo quello che abbiamo detto prima. Non saranno le promesse e i miracoli che ci faranno realizzare la volontà di Dio nella nostra vita e intorno a noi. Ve lo dico da capo. Non saranno né le promesse e né i miracoli che mi faranno o ti faranno conquistare la volontà di Dio per la tua vita. Mi spiego meglio. Non è che perché qualcuno ti ha profetizzato o perché leggi sulla Bibbia una promessa o perché hai visto un miracolo o hai vissuto un miracolo di guarigione di qualsiasi tipo che questo ti rende più adatto o ti spinge ancora di più a fare la volontà di Dio. Questo è bello, questo dà gloria a Dio, questo ci aiuta, questo ci sostiene, questo ci incoraggia. Ma non possiamo appoggiarci ai miracoli o alle promesse. Perché vedete, non c'è nessuna promessa più grande dell'Evangelo. Non c'è nessuna promessa più grande dell'Evangelo. L'Evangelo è la promessa che Dio ha pagato il prezzo per fare pace con noi. E il miracolo più grande è la resurrezione di Gesù sulla croce. Siete d'accordo con me? Se questo bastasse, tutti noi avremmo la salvezza. Ma non soltanto tutti noi, tutto Modugno, tutto il mondo avrebbe la salvezza. Perché se non c'è promessa più grande e miracolo più grande, e questo fosse sufficiente, tutti quanti dovrebbero essere salvati. Ma così non è. Così non è. Perché c'è qualcosa di personale, di individuale. C'è una scelta che ognuno deve fare per sé, per rendere pratico e vero quella promessa e quel miracolo per la propria vita. I miracoli e le promesse non sono sufficienti a conquistare la volontà di Dio e a realizzare la volontà di Dio per la nostra vita. Quello che deve succedere è un cambio di identità. Quello che deve succedere è un cambio nella nostra identità personale. Noi dobbiamo lasciare la vecchia identità e dobbiamo assumerne una nuova. E la Bibbia lo esprime così. In 2 Corinzi, al capitolo 5, al versetto 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Il Signore non vuole soltanto salvarti. Il Signore non vuole soltanto salvarmi. Il Signore vuole rinnovarmi. Il Signore vuole rinnovarti. Ed è proprio questo rinnovamento la chiave della vittoria. È questo rinnovamento la chiave della conquista della volontà di Dio nella mia vita, nella tua vita. Si tratta di demolire la vecchia cultura e adottare una nuova cultura, la cultura del regno di Dio fondata sulla parola di Dio. Che cos'è la cultura? La cultura non è altro che un insieme di informazioni, un insieme di opinioni, delle credenze, delle tradizioni, dei comportamenti che caratterizzano un gruppo di persone. Vi faccio un esempio. La settimana scorsa eravamo in un incontro di porte aperte in Olanda con mia moglie e c'era gente da tutte le parti del mondo. Tu pensa a una nazione del mondo, da lì veniva qualcuno. E c'era un momento dove veniva fuori la cultura, e non sto parlando di parlare, dei vestiti, no, proprio del comportamento, la colazione. La colazione. Allora, noi andavamo a fare colazione. In Italia la colazione è cappuccino e cornetto o caffè e cornetto. Le varianti, non è qualcuno prende l'espressino bianco e il cornetto, però quelle sono. Ma lì c'era gente che mangiava le uova sode, c'era gente che mangiava la pancetta, c'era gente che prendeva il riso con le verdure, a colazione. Adesso non c'è qualcosa che è giusto e qualcosa che è sbagliato. Ognuno era arrivato lì, si era portato dietro la sua cultura, le sue abitudini e le viveva tranquillamente. Nel fare parte della famiglia di Dio, che cultura ci portiamo dietro? La Bibbia dice che noi facciamo parte, non siamo più né forestieri né ospiti, ma membri della famiglia di Dio. Nel far parte della famiglia di Dio, che cultura ci portiamo dietro? La cultura che la vita quotidiana costruisce dentro di noi è centrata sul sospetto. Che vuole questo da me? Sull'orgoglio, sul dominare, sul guadagno, sulla vendetta. E questo è solo per dire qualcosina così. Questa è la nostra cultura. Se viene tuo figlio o tua figlia e inizia a dire papà, tu mai pensi qualcosa vuole. Questo è il sospetto, questo è il guadagno, questa è la nostra cultura. Noi siamo così, chi più o chi meno. E questo modo di pensare condiziona il nostro vivere, le nostre parole, le nostre azioni. E tutto questo influenza il nostro comportamento. Noi ci comportiamo in funzione della cultura che abbiamo, in funzione delle abitudini che abbiamo. Io e mia moglie siamo andati a fare una passeggiata. Dove camminavamo? In mezzo alla strada. In Olanda, in mezzo alla strada. E invece in Olanda c'è la carreggiata per le macchine, la carreggiata per le biciclette e la carreggiata per i pedoni, con i cartelli grossi. Noi non li abbiamo visti, perché per noi camminare era camminare in mezzo alla strada. Fa parte della nostra cultura trovare delle soluzioni pratiche. Allora, se io mi devo fermare in doppia fila, lo so che non mi posso fermare in doppia fila, qual è la soluzione che noi adottiamo? Le quattro frecce. Tu metti le quattro frecce e stai a posto. Non ti devi più preoccupare se stai davanti a un passo carrabile, se quello che ha parcheggiato non può più uscire, hai le quattro frecce. E non solo, non lo fanno solo gli altri, lo facciamo anche noi, perché fa parte di noi. È della nostra cultura, ascoltatemi bene, quella che scegliamo di avere, che influenza il modo del come vivremo, le promesse e quello che la parola di Dio ci dice e ci insegna. Per esempio, la nostra cultura ci dice che nessuno ci regala niente, dobbiamo guadagnarci tutto e dobbiamo conquistarlo e poi difenderlo, perché sennò qualche altro ce lo ruba. Siete d'accordo con me o sono solo io così? Fate con la testa se siete d'accordo, se no sembra che sono solo io. E noi siamo così dentro. Vi ricordate il popolo di Israele che era schiavo dentro? Noi siamo così dentro. E quando leggiamo della grazia di Dio, che non dobbiamo meritare niente, ma è un dono di Dio, la nostra cultura influenza quello che noi crediamo riguardo a questo. Sembra incredibile, ma è così. Sembra incredibile, ma ci sembra impossibile che veramente Dio ci possa perdonare e ci possa voler bene così come siamo, e allora cerchiamo di essere più bravi. E non cerchiamo di essere più bravi perché amiamo Dio, no, cerchiamo di essere più bravi così Lui ci vuole più bene. Questa è la nostra cultura. Adesso io l'ho espresso in un ragionamento così, ma in fondo, una parte di questo sta in ognuno di noi, perché ci hanno insegnato a pensare così. E questo, la cultura della grazia è esattamente l'opposto della cultura che noi viviamo e che noi abbiamo imparato nella nostra vita. Ma qui c'è una grande, grande chance che noi abbiamo. Noi possiamo scegliere nella nostra vita che cultura avere. Il termine cultura deriva da un verbo latino, colere, che significa coltivare. Coltivare significa che io posso scegliere dentro di me che cosa coltivare, che cultura coltivare. In ultima analisi, tutto si riduce alla scelta della verità a cui io voglio credere. Io posso scegliere, tu puoi scegliere che verità credere. E quella verità puoi coltivare. Se la verità che deriva da quello che io ho imparato, o se la verità che deriva da quello che la Bibbia dice, da quello che la parola di Dio dice. Se io scelgo di coltivare quello che io ho imparato, quella che è la mia tradizione, che secondo me è così che deve andare. Ricordiamoci quello che abbiamo detto: né le promesse né i miracoli mi faranno conquistare niente, perché io manterrò quella cultura, esattamente come il popolo di Israele che era rimasto schiavo dentro, e nessun miracolo e nessuna promessa gli ha permesso di conquistare la terra promessa. E Dio ha dovuto distruggere quella cultura, distruggendo una generazione. Per fortuna noi siamo nel tempo della grazia e possiamo scegliere che cultura avere e che cultura coltivare. Se quello che io credo o se è quello che la parola di Dio dice e insegna. È quello che io coltivo, quello a cui io scelgo di credere, condizionerà i miei pensieri, condizionerà le mie scelte e condizionerà le mie parole e le mie azioni. Questo è molto importante che noi lo capiamo e che noi lo afferriamo, perché noi non dobbiamo continuare a sforzarci di essere diversi. Noi dobbiamo diventare diversi. Ecco perché pensati libero e poi credici. Pensati libero e poi credici. Per concludere, la cultura che io scelgo mi darà le scuse giuste per fare le mie scelte. La cultura che io scelgo di avere, o quella mia personale, quella tradizionale, fatemi dire così, o quella divina che viene dalla parola di Dio, quella che io scelgo di adottare, sarà la cultura che mi darà le scuse giuste per operare le mie scelte. La cultura mia mi dice che se metto le quattro frecce sto a posto. Se io adotto una cultura seria, devo andare a trovare un parcheggio e magari pagare anche il grattino. Di questo stiamo parlando. Se io mi porto dietro la mia cultura, farò le scelte in funzione di quello che io sono abituato a fare. Sceglierò la colazione cappuccino cornetto, o sceglierò il bacon con le uova sode, o sceglierò il riso con le verdure, perché quella cultura mi sono portato dietro nel far parte della famiglia di Dio. Ma ascoltatemi bene. Non c'è nessuna scusa giusta che può giustificare una scelta sbagliata. Ve lo dico da capo. Non c'è nessuna scusa giusta che può giustificare una scelta sbagliata. E questo è molto serio, è qualcosa di molto importante. E c'è un episodio che Mosè ha vissuto che ce lo fa capire subito. Mosè si è trovato due volte nella stessa situazione. Mancava l'acqua. E se manca l'acqua nel deserto diventa un problema. E il popolo iniziava a lamentarsi, iniziava a mormorare, iniziava a dire che beviamo, torniamo in Egitto. E Mosè va da Dio e dice: senti, signore, qua manca l'acqua, io non so neanche l'acquedotto dov'è. E Dio gli dice, in Esodo al capitolo 17, al versetto 6, io starò davanti a te sulla roccia, che è in Horeb, tu colpirai la roccia e ne scaturirà dell'acqua. E questo è successo veramente. Dio è andato lì, Mosè è andato lì davanti alla roccia col bastone, ha percosso la roccia ed è venuta fuori una sorgente di acqua che ha dissetato tutto il popolo di Israele. Dopo un po' di tempo si è presentata di nuovo la stessa situazione, di nuovo che mancava l'acqua, di nuovo che il popolo iniziava a lamentarsi e di nuovo che Mosè diceva: signore, io che cosa posso fare? E Dio dà una soluzione simile a Mosè, ma non uguale. Simile, ma non uguale. È scritta in Numeri al capitolo 20 ed è scritto: prendi il bastone, di nuovo il bastone, e tu e tuo fratello parlate, convocate la comunità e parlate alla roccia. La prima volta dovevano colpire la roccia, questa volta Dio gli ha detto più facile, più semplice: parlate alla roccia ed essa darà la sua acqua. E così è successo, con una piccola variante. L'esperienza positiva precedente di Mosè ha creato in lui una cultura, e la sua cultura gli diceva: alla roccia non bisogna parlare, bisogna colpirla. Era una scusa giusta, aveva funzionato. E così Mosè ha battuto la roccia invece che parlarle, ed è uscita l'acqua. Ma sapete la conseguenza qual è stata? Che Dio gli ha semplicemente detto: siccome non hai avuto fiducia in me, e non hai parlato alla roccia, ma l'hai battuta, nemmeno tu entrerai nella terra promessa. Non è incredibile? Non è qualcosa di da far rimanere senza parole? Non c'è nessuna scusa sbagliata, no. Non c'è nessuna scusa giusta che può giustificare una scelta sbagliata. Non aggiornare la cultura a Mosè in funzione di quello che la parola di Dio era stata rivolta a lui, gli è costato il vedere la terra promessa. Che cosa faremo noi della nostra vita? Che cosa faremo noi della nostra vita? Siamo disposti a mettere in discussione quello che siamo per essere rinnovati? Siamo disposti a mettere in discussione la nostra cultura, quello che noi crediamo sia vero, con le verità della parola di Dio? Siamo disposti a sciogliere le riserve che abbiamo nei confronti della parola di Dio per adottarle come nostra cultura per realizzare il piano di Dio? Questa scelta è quello che ci farà vincere. Può darsi che tu non hai mai avuto nessuna profezia, non è venuto mai nessun profeta da te a dire: tu non ti preoccupare. Non è venuto mai nessun profeta. E può darsi che non hai mai sentito nessuna promessa della Bibbia veramente tua. Io una promessa della Bibbia ho sentito mia dall'inizio, ed è quella che è scritto nel Salmo 32, dove Dio dice: io ho il mio occhio su di te, non sviare né a destra né a sinistra, ma fai come ti dico io. Non essere come un mulo e come un asino, perché se no passi guai. Andatela a leggere e vedete se non è così. Quella è la promessa che io ho sentito mia. Forse tu non hai avuto nessuna profezia, non hai avuto nessuno. Ti senti, qualcuno usa dire, l'ultima ruota del carro. Ok, ma se tu sei disposto a mettere in discussione la tua cultura, quello che credi, e a sostituirlo con quello che la parola di Dio dice, allora diventi una nuova creatura. E allora il regno di Dio prende spazio e avanza dentro di te, e il regno di Dio prende spazio e avanza intorno a te. Questo è quello che ti fa vincere. Voglio farvi un ultimo esempio, visto che ho ancora un paio di minuti. C'è, questo è vero, non so chiacchiere. Avete mai visto gli elefanti? Chi è che ha visto un elefante mai? Anche in televisione, no, dal vero. L'abbiamo visto quasi tutti. Voi avete visto che quando poi il domatore deve portare tutti indietro gli elefanti, gli mette una corona di corda al collo. Una corona di corda, anche relativamente piccolina rispetto a quel che è l'elefante, e con uno spago molto sottile, lo prende, lo tira e l'elefante cammina dietro. Sapete perché riesce a fare questo? Per la cultura dell'elefante. Perché quando l'elefante è piccolino, e quando è piccolino è già così, gli mettono questa corda, la stessa corda al collo, che siccome lui è piccolino, è più grande la corda, ma non perché è grande la corda, perché l'elefante è piccolo e lui cerca in tutti i modi di liberarsi, lui cerca in tutti i modi di venirne fuori, ma non riesce. Fino a quando non smette di provare. Poi quando l'elefante cresce, la corda rimane quella e sarebbe insignificante per l'elefante spezzarla, ma non ci prova più. Non ci prova più, perché nella sua cultura, nella sua idea, lui non è capace, lui non riesce. E allora il padrone dell'elefante prende questo filettino e si tira l'elefante dietro. La nostra cultura, quello che noi crediamo, rischia di essere lo stesso. Quante volte noi abbiamo provato a liberarci, a cambiare, e non ci siamo riusciti, fino a quando non abbiamo smesso di provare e non ci proviamo più, e il diavolo ci prende per la cordicella così e ci porta dove vuole lui. Ma Gesù è vivo, questa è la differenza, che Gesù è vivo e lui la può spezzare quella cortina, e tu questa mattina puoi decidere di scegliere a che cultura credere, che cultura coltivare, perché Gesù è vivo e tu gli appartieni, e questo farà di te, di me, di noi, della nostra Chiesa qualcosa di vincente, qualcosa che realizza la volontà di Dio per la sua gloria. Amen.